giuramenti non cerco da te, ma tu mi senti tremare in questa notte sul mare. Vola sull'onda profumata la dolce serenata che scende nel cuore come le frasi dell'amore che non conosci tu. Un giorno ti dirò: amore, amore, per te io canterò con il mio cuore, ti parlerà per me la mia canzone che ti dirà così: amore, amore. Canto e il canto mio ti dice che il cuor non è felice lontano. Vorrei parlarti d'amore.